Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buon inizio settimana a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Le famiglie sono sempre alle prese con l'annosa questione di far quadrare i conti, ma in tempi di crisi la questione diventa prioritaria. È un periodo in cui le entrate scarseggiano e dunque per risparmiare e far quadrare questi conti non rimane che fare leva sulla riduzione delle spese, laddove possibile. Oggi le pagine di Affari Privati del Sole 24 Ore vanno in qualche modo a caccia di sconti, illustrando il funzionamento dei principali sistemi di comparazione dei prezzi dei servizi più vari, dalla telefonia alle assicurazioni fino alle bollette, alcuni di iniziativa privata, altri istituzionali, dal trova offerte lanciato nei mesi scorsi dall'autorità per l'energia elettrica e il gas, al servizio SOS tariffa, al preventivatore dell'ISVAP. Tanti sono i portali che consentono di valutare la spesa più conveniente in base alle proprie esigenze e anche di avere sotto mano un ventaglio di offerte tagliate sul proprio profilo. Oggi indaghiamo sul funzionamento di alcuni di essi, naturalmente come sempre invitando a chiamarci all'800 24 00 24. In primo luogo vogliamo capire se usate questi servizi, visto che non facciamo altro che parlarne anche a Salva Danaio e oggi ne abbiamo messi a confronto tre. E soprattutto, se volete, oggi siamo in grado di farvi un preventivo per la tariffa telefonica che fa il caso vostro, quindi ci mettiamo proprio completamente a vostra disposizione. Chiamateci, magari raccontateci se volete cambiare abbonamento perché la tariffa che il vostro gestore vi propone non va più bene, e allora vediamo qual è magari quella migliore per voi. Il numero verde, ve l'ho ricordato, 800 24 00 24, il numero per i vostri messaggi 349 238 6666. La borsa, prima di partire con il nostro argomento, borse positive in questo momento dopo un venerdì nero. Oggi si tenta il recupero, un recupero che però è piuttosto modesto rispetto ai cali registrati nella seduta di venerdì. Parigi più 0,49%, Francoforte più 0,11%, Londra più 0,41%, Milano più 0,51% invece sul FTSE MIB. Sul mercato oggi è arrivata la notizia che per la verità non è stata esattamente disattesa, perché il fallimento, la bancarotta della finanziaria indipendente Citigroup era in realtà nell'aria, è stata formalizzata e ci si aspettava forse una reazione più accentuata in termini negativi dal mercato. Così non è, in ogni caso è la quinta bancarotta più importante di sempre negli Stati Uniti, dopo quella di Lehman Brothers, Washington Mutual, WorldCom e General Motors, e con questa notizia oggi il mercato si confronta. Piazza Affari, migliori titoli Fiat più 2%, Telecom più 94, si vede che è proprio un lunedì di pioggia, ci incespichiamo anche nella parola. In pregiro più 1,82 Atlantia ex Autostrade, supportata da un rapporto positivo di Credit Suisse, guadagna l'1,80%, Eni più 1,42. Segno meno invece su Mediolanum, che sta via via peggiorando, perde 2,5 punti, Parmalat meno 2,28, Banco Popolare meno 1,77. Euro su dollaro a 1,47,73. Questi temi di borsa, la borsa adesso la lasciamo, andiamo invece alle nostre borse, anzi ai nostri portafogli, che sono sempre alla spasmodica ricerca di risparmio. E soprattutto, insomma, quando le bollette sono più leggere siamo sicuramente tutti più contenti. Come vi dicevo, oggi il Sole 24 Ore illustra nelle pagine di Affari Privati il funzionamento dei principali sistemi di comparazione dei prezzi di servizi vari, dalla telefonia alle bollette dell'energia e alle assicurazioni. Allora oggi noi ne abbiamo messi a confronto alcuni. Ringrazio e saluto di essere ritornato nella nostra trasmissione l'ingegnere Alberto Grossi, direttore consumatori e qualità del servizio della Autorità Energia Elettrica e Gas. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno dottor Grossi, ingegner Grossi. Buongiorno a Nicola Girelli, amministratore delegato di Sei Sicuro, gruppo Assiteca. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Anche Sei Sicuro è un servizio online gratuito di comparazione delle tariffe e vendita delle polizze RC auto e moto. Alberto Mazzetti, imprenditore giovanissimo, fondatore con altri due colleghi o ex colleghi universitari, credo a questo punto, di SOS Tariffe, qui parliamo invece di telefonia. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti. Alberto che si metterà a disposizione degli ascoltatori che lo vorranno per così al volo fare un preventivo, diciamo, di carattere telefonico. Tra l'altro, credo che sia tra tutti quelli di cui stiamo parlando questa mattina, SS Tariffe è forse l'ultimo portale nato? Sì, è online da maggio 2009, però insomma, il lavoro è cominciato molto tempo prima, quindi nel senso... E tra l'altro ci sono già delle belle idee di sviluppo. Allora, con chi cominciamo? Cominciamo con l'ingegner Grossi, Autorità Energia Elettrica e Gas. Perché? Perché per quello che riguarda il trova offerte dell'Autorità del Gas e dell'Energia, noi ci eravamo già sentiti, ingegner Grossi, lei se lo ricorderà, in aprile, quando anche il vostro servizio era partito. È già da qualche mese comunque operativo, immagino anche con discreta soddisfazione da parte dei consumatori, e proprio come dire, la prova sul campo vi ha fatto rendere conto che era necessario anche apportare delle nuove funzionalità, no? Intanto quante compagnie, come dire, di quante compagnie viene intermediata l'offerta? Mi viene di dire, però in realtà non è che l'autorità intermedia l'offerta, ecco. No, in questo momento ci sono nel servizio 17 imprese, ma stiamo parlando dei principali venditori a livello nazionale, e sono presenti nel trova offerte 26 offerte. Ecco, va detto che partecipano a questo strumento volontario solo le aziende che però fanno parte di quell'elenco che ha istituito l'autorità, e volontario, a cui possono partecipare però solo aziende con requisiti di affidabilità stabiliti dalla nostra stessa autorità. Quindi in sostanza le compagnie devono sottoscrivere un vostro protocollo? Come funziona? Funziona che devono avere determinati requisiti di procedure, di affidabilità finanziaria, che devono dichiarare all'autorità, e poi l'autorità controlla verificando poi la corrispondenza di quanto dichiarato. Questo a maggior garanzia dei consumatori. Questo vuol dire che ci può essere sul mercato qualche offerta che è attiva ma non è presente nel trova offerte. Però ripeto, ci sono 26 offerte commerciali diverse tra di loro a prezzo fisso, indicizzato rispetto alle condizioni fissate dall'autorità o in base ad altri parametri, e quindi per esempio se andassimo su una piazza come quella di Milano abbiamo quasi una decina di offerte sulle quali si può fare un'interessante comparazione. Dottor Grossi, ingegner Grossi, quanti utenti si sono collegati al vostro sito in questi mesi per verificare se, come dire, l'abbonamento, il contratto sottoscritto fosse conveniente, o se fosse il caso, diciamo, di migliorarlo, di trovare qualche offerta migliore sul mercato? Dunque, dal 10 di aprile, da quando abbiamo iniziato il monitoraggio, sono oltre 200.000 i consumatori che hanno consultato il sito, e, cosa interessante, hanno quasi tutti completato l'analisi, cioè abbiamo avuto circa un 5% di rifiuto, e che è un dato interessante, vuol dire che il sito si presta, è facile da consultare, del resto sono solo tre gli elementi da mettere: il cap del comune, il consumo annuo in kilowattore che si trova in bolletta, e la tipologia di offerta al quale si è interessati. Quindi con questi tre parametri già si può entrare, poi uno può ulteriormente personalizzare la richiesta, ma consente di trovare le offerte presenti sul mercato, e ricordo in questo momento nel sito ce ne sono ben 8 a livello nazionale, quindi perché sono disponibili in tutti i comuni d'Italia, e fare quindi le comparazioni. Noi raccomandiamo sempre di non limitarsi al prezzo stimato annuo, perché ci sono altre condizioni contrattuali che sono altrettanto interessanti e che potrebbero rendere più interessante un'offerta leggermente più cara, ma che meglio si avvicina, certo, alle esigenze del consumatore. Benissimo, poi magari ci addentreremo all'interno di questi aspetti, perché è chiaro, noi siamo in questo momento a caccia di sconti e di risparmio, ma magari qualche volta siamo disposti anche a pagare un servizio, qualcosa in più, se da questo servizio abbiamo, come dire, magari un'assistenza, una consulenza più ampia da altri punti di vista. Sono sempre, come dire, scelte strettamente individuali. Vorrei sentire invece adesso Nicola Girelli, amministratore delegato di Sei Sicuro del gruppo Assiteca. È uno dei più importanti broker italiani nel settore assicurativo, e peraltro non vorrei essere scortese, una cattiva ospite, dottor Girelli, ma credo che tra tutti quelli che abbiamo invitato stamattina Sei Sicuro sia il più anziano come preventivatore. Siete nati nel 2000. Siamo nati nel 2000, quindi siamo stati dei veri pionieri nella comparazione assicurativa in particolare, e il nostro è stato un cammino piuttosto lungo che si è nel tempo evoluto, aumentando il panel di compagnie che partecipano alla nostra comparazione, e soprattutto andando a mirare sempre di più l'offerta su quelle che sono le esigenze dell'utente internet e dell'assicurato, quindi di chi cerca la comodità, la facilità di preventivazione e soprattutto la certezza dei dati che gli vengono proposti. E infatti, perché molto spesso il problema anche di chi si avvicina, no, ai motori di ricerca per individuare le offerte che è necessario appunto trovare a seconda di quelli che sono i propri bisogni, è che magari rispetto alla fotografia scattata dal preventivatore, poi quando si va a sottoscrivere il contratto, come dire, le condizioni non si sa perché cambiano, per cui voi siete assolutamente sicuri che ci sia totale corrispondenza, dottor Girelli? Siamo sicuri perché l'utente al termine della preventivazione può anche decidere di acquistare direttamente online, quindi o abbiamo sbagliato qualcosa, cosa che fortunatamente non avviene, o il prezzo che viene indicato è esattamente quello che si riferisce a tutte le richieste fatte dall'utente ed è tagliato sul suo profilo esatto, quindi senza tra virgolette o semplificazione degli assunti che in alcuni casi possono portare invece, come nel caso del preventivatore, a dare un importo indicativo. Il nostro è un servizio che parte dalla preventivazione fino alla consegna direttamente al domicilio del nostro cliente, della polizza. Della polizza. Alberto Mazzetti, andiamo adesso a S-Tariffe, andiamo, come dire, a un campo che rappresenta un vero e proprio ginepraio, quello delle offerte telefoniche, perché è un settore dove la concorrenza negli ultimi anni davvero è stata intensissima e insomma ci lamentiamo sempre degli operatori delle telecomunicazioni perché le offerte non sono mai molto chiare e quando sottoscriviamo un abbonamento prima di poter scappare, se non siamo più soddisfatti dall'operatore, insomma di strada ce ne vuole. Da percorrere questo SOS Tariffe, come è nato? Perché tra l'altro di preventivatori nel settore delle telecomunicazioni c'erano, mi riferisco per esempio a quello di Altro Consumo, una grande associazione dei consumatori, però è riservato solo ai soci. Esatto. Questo è completamente gratuito. Esattamente, è nato proprio appunto dall'esigenza di cambiare le proprie tariffe telefoniche e ci siamo trovati noi nella condizione di doverlo fare e non sapevamo come orientarci, quindi l'idea è nata proprio da lì, da un'esigenza e abbiamo messo su questi motori di ricerca che non tengono conto solo delle tariffe nominali e quindi di tutto quello che c'è, la tariffazione standard, ma tengono conto anche delle promozioni, le opzioni e quindi tutto quello che poi può far realmente risparmiare. Funziona come gli altri preventivatori di cui abbiamo parlato fino ad ora? Bisogna inserire il proprio profilo? Quali informazioni ci chiedete prima di come dire, chiacchierare con voi? Sì, per poter allora, dialogare con voi, di che ogni, informazioni avete ogni bisogno? Motore dispone di diverse opzioni. Diciamo che ad esempio per la telefonia mobile si può creare un mini profilo di consumo indicando il numero di chiamate che si effettua, la loro durata, i messaggi, se si ha un operatore verso cui si chiama più frequentemente e se si chiama più frequentemente numeri di rete fissa oppure determinati numeri. Ad esempio invece la DSL chiediamo la velocità a cui si vuole navigare, se c'è un tetto massimo di spesa entro cui si vuole rimanere e poi tutta una serie di servizi diciamo accessori che ad esempio come la voce oppure se uno vuole il modem wifi oppure il modem in omaggio o la banda garantita. Non abbiamo ancora dato dettaglio dei siti da consultare, allora li accontentiamo subito. Abbiamo invitato per esempio questa mattina intanto l'autorità del gas e dell'energia e per esempio il sito dell'autorità è www.autorita.energia.it e lì, ingegner Grossi, c'è il trova offerte, giusto? Sì, lì entrando si trova il pulsante trova offerte, entrando, cliccandolo, si entra nella pagina di ingresso di spiegazione dove si ritrova lo stesso simbolo e c'è indicato anche il numero verde 800 166 654, al quale si può chiedere telefonicamente informazioni per chi non è abituato a lavorare col computer, con internet. Benissimo. Ah, quindi praticamente il numero verde è in sostanza una guida che permette di orientarsi nel sito o comunque lì vengono soddisfatte tutte le domande degli utenti eventualmente? Vengono date informazioni, per esempio se uno dice ma io sto a Roma piuttosto che a Brindisi, quali offerte ci sono nel mio comune? E l'operatore fa la consultazione e dà le informazioni perché poi il cliente possa contattare trovare i venditori che ritiene più interessanti. Benissimo. Ecco, qua, se permette, è importante dire che per ora, ma già l'ha accennato prima, riguarda i clienti domestici elettrici. Mm-hmm. Poi passeremo ai domestici gas e poi anche alle partite IVA e non domestici. Benissimo. Nicola Girelli, invece, amministratore delegato di Sei Sicuro, qui va specificato che Sei Sicuro si scrive con il numero 6. Esatto. Mm. Diamo l'indirizzo internet corretto per i nostri ascoltatori. www.seisicuro.it e comunque, se anche venisse digitato con le lettere anziché col numero, il motore di ricerca pesca ugualmente. Quindi pesca ugualmente. E abbiamo anche un servizio di preventivo telefonico, proprio per chi magari non vuole utilizzare internet o per pigrizia o semplicemente per magari scarsa confidenza, che è il numero 800 007766. Benissimo, intanto vedo che è lunghissima la lista degli ascoltatori pronti ad interagire invece con Alberto Mazzetti per SOS Tariffe, sostariffe.it. Esattamente, molto sostariffe.it. Benissimo, Anna da Milano, visto che avevamo promesso lei di iniziare il nostro giro di chiamate, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, io penso di avere dei seri problemi con la telefonia in generale. Allora, abito in una zona che è cablata solo Fastweb e questo mi vincola tantissimo perché prima c'era il monopolio di Telecom. E adesso io mi ritrovo con Fastweb obbligatoria proprio. Seconda cosa, invece, volevo capire quale operatore telefonico per telefonia mobile si può utilizzare, cercando di risparmiare, per telefonate in arrivo e in uscita per l'estero. Per l'estero. Anna, lei ci ha dato, come dire, un'indicazione abbastanza interessante, però così, chiacchierando anche con i nostri ospiti a microfoni spenti, ragionavamo sul fatto che molto spesso non si ha una chiara percezione del proprio profilo di consumo, per cui lei chiede evidentemente l'offerta più conveniente, però magari non ci ha dato delle informazioni fondamentali, perché qua bisogna sapere intanto quante telefonate si fanno, quante ne arrivano dall'estero eventualmente, quindi qua dobbiamo affrontare tutta la cosiddetta questione del roaming. E Alberto Mazzetti, allora sì, diciamo, il paese chiamato, Anna, giustamente appunto l'informazione principale è sapere il paese verso cui si effettua il traffico verso l'estero, in quanto ci sono molti operatori offrono tariffe proprio ad hoc per determinati paesi. Mi viene in mente ad esempio H3G, che è presente in diversi paesi del mondo, tra cui ad esempio l'Australia o l'Austria, l'Inghilterra, e per i propri clienti riesce a mantenere le stesse tariffe nazionali anche all'estero, con un piccolo scatto alla risposta in più. Benissimo, ma vogliamo chiedere qualche cosa ulteriore ad Anna in modo tale da poterla soddisfare anche, Anna? Ecco, allora, no, io probabilmente utilizzo tantissimo le telefonate verso Brasile, Russia, Emirati Arabi, tutta la zona del Golfo e l'India. Anna, sono telefonate, come dire, di lavoro anche per capire, ecco, perché questa anche è una questione di fondamentale importanza. C'è un'indicazione di risparmio che sta arrivando, vedo dal conciliabolo che si sta organizzando qui in studio, Alberto. Sì, esatto. L'idea di non utilizzare il telefono, in sostanza. Ma allora, se è possibile utilizzare un computer per effettuare queste chiamate, sicuramente il risparmio è assicurato con uno di quei programmi di voice over IP, come ad esempio Skype, che acquistando dei pacchetti prepagati permette di chiamare illimitatamente i paesi che si di cui e infatti anche perché Anna bisogno. Da quello che capisco si fa ogni giorno davvero un bel giro del mondo. Allora, Angelo da Milano ci fa ritornare invece sulla corrente elettrica. Angelo, buongiorno. Buongiorno a lei. E dunque si presenta questa, quando si tratta di cambiare gestore, questo è un problema, Angelo, mi scusi se la No, la interrompo, ma questo è un problema che riguarda sia i distributori di energia che i distributori di servizi di telecomunicazioni. Come dire, chiudere i vecchi rapporti è molto difficile. Infatti il problema che si è presentato a noi è proprio questo, che si è cercato di passare da Enel Iride, mi pare fosse, a Sorgenia, e quando ci si è accorti che in realtà Sorgenia costava più di Iride, si è cercato di tornare indietro. Per anni, non per mesi, per anni Sorgenia ha continuato a mandare bollette fantasmagoriche, ogni mese aumentava l'importo fino a 2000 euro, insomma si è dovuto, addirittura questi hanno messo in mezzo i recuperi crediti eccetera, quando poi si è dimostrato che in realtà le bollette venivano pagate a bene regolarmente, la cosa è finita lì, ma con un grande problema di lettere raccomandate, telefonate, tempo perso, insomma. Cioè, è veramente un malcostume. Lo so, io credo che di questa situazione, tra l'altro, l'autorità dell'energia elettrica e del gas sia ben consapevole. Al loro ufficio reclami situazioni di questo genere. Arrivano puntualmente ingegner Grossi, adesso senza commentare peraltro la situazione della società citata, che credo che sia anche oggetto di indagine nel comportamento da parte dell'autority, se non anche di sanzione recente, se non ricordo male, ma a parte questo, però è come dire, proprio da quando si sono aperte le opportunità del mercato libero si è anche capito come effettivamente per farsi concorrenza gli operatori cosa fanno, cercano di chiudere i recinti, non far andare via i clienti in tutti i modi, a volte anche con pratiche commerciali non proprio corrette. Ma dunque è un fenomeno che era presente nei mesi scorsi, devo dire che in base alle segnalazioni che ci arrivano è un argomento che sta diventando meno importante, sta andando in soluzione, anche perché l'autorità si è attivata e ha introdotto nuove regole più stringenti dal 1 luglio 2009 con indennizzi automatici a favore del consumatore nei casi in cui il venditore sbagli e faccia la doppia fatturazione. Questo noi riteniamo che abbia innalzato il livello di attenzione dei venditori e questo spiega anche la riduzione del fenomeno. Tuttavia noi continuiamo a sorvegliare, perché la cosa più importante è che questi fenomeni non accadano, perché è bene trovare le offerte, è bene compararle, ma come giustamente diceva l'ascoltatore, poi uno non deve trovarsi a incappare in disavventure, cioè deve trovare poi effettivamente l'offerta che gli hanno promesso e riuscire a passare da un fornitore all'altro senza cattive sorprese. Ma Angelo, che ancora a che fare con questa situazione che va avanti, da quello che ho capito, da anni, adesso ammettendo che vada avanti da quando è partita la liberalizzazione del mercato, quindi da 2 anni, ingegner Grossi a questo punto cosa può fare? Prende tutto l'incartamento? Se può dimostrare di aver formalmente chiuso nella maniera corretta il rapporto con il vecchio distributore, eppure questo fa ancora orecchie da mercante? No, suggerisco, se non ha trovato già la soluzione col proprio venditore, di mandare la segnalazione all'autorità e poi noi faremo le indagini, come facciamo sempre in questi casi, con i venditori per capire chi ha sbagliato e che perché poi provveda riparando quello che ha fatto di negativo nei confronti del consumatore. Benissimo. Allora, volevo ritornare per un attimo al settore assicurativo con Sei Sicuro, con Nicola Girelli, perché invece negli ultimi mesi abbiamo avuto da parte dell'ISVAP, l'autorità di controllo sul mercato assicurativo, abbiamo visto appunto, ne abbiamo parlato molto spesso anche qua, la nascita del preventivatore delle polizze, no? E anche lì c'è un po' di differenza rispetto a quella che è la vostra attività, perché l'ISVAP mette in vetrina l'offerta di tutte le compagnie italiane, mentre le iniziative private riescono ovviamente ad intermediare l'offerta solamente di determinate compagnie. Come avete colto questa novità sul mercato? In qualche maniera vi ha, non dico disturbato, ma oppure ha anche aiutato la vostra attività, no? È bene che i consumatori sappiano che ci sono diverse opportunità per fare comparazioni dei prezzi. Ma esatto, la partenza del preventivatore per noi ha due importanti benefici. Il primo è che si parli della possibilità di confrontare le polizze tramite internet, quindi che sempre più persone vengano a conoscenza che esiste questo strumento e che permette di fare scelte consapevoli nel momento in cui si decide di rinnovare la polizza del proprio assicuratore o in alternativa scegliere una nuova polizza. Il secondo aspetto molto importante è che dovrebbe aprire anche per noi la possibilità di aumentare il numero delle compagnie che partecipano al nostro panel. Perché? Perché noi oggi abbiamo, noi copriamo, diciamo, come quota di mercato praticamente 2/3 del mercato nazionale in termini di quote detenute dalle singole compagnie. E quindi la nostra è già un'offerta piuttosto rappresentativa. E noi che cosa abbiamo? Abbiamo tutte le compagnie dirette, quindi quelle che operano su internet, tranne una che è Generatel, che però ha già dato so che l'accordo senso, è addirittura esatto, d'arrivo, esatto, sì. Sono dei problemi tecnologici. Mentre per le altre compagnie noi diciamo, svolgiamo un'attività di analisi, studio delle tariffe, quindi di inserimento nel nostro database di queste per poter calcolare in automatico il premio. Ora, con l'avvento del preventivatore, la nostra speranza è di poter anche con questo in futuro poterci collegare direttamente via internet in modo tale da poter dare una risposta da parte di tutte le compagnie. Allora, come promesso, Maurizio, dalla provincia di Venezia, benvenuto. Sì, buongiorno. Buongiorno. Senta, due domande. Allora, la prima, io sono un agente di commercio, una tariffa, parliamo di telefonia ovviamente, sì, del 92, una tariffa arancione della TIM. Quindi... Guardi, gli imprenditori di SOS Tariffa Malapena erano nati in quegli anni. Maurizio, si renda conto lei. Ecco, no, appunto, volevo un consiglio su come comunque eventualmente orientarmi. La seconda domanda è la seguente. Io ho chiamato la TIM perché ho chiesto gentilmente, ho detto guarda, ho delle altre proposte da altri gestori, ditemi voi se mi potete migliorare. E mi hanno detto, solitamente una tattica che funziona, invece stavolta Maurizio? Maurizio? Deve praticamente cambiare gestore, poi noi la chiamiamo. Mi sembra una cosa un po' assurda. Cioè l'hanno invitata ad uscire, però praticamente poi avrebbero trovato il modo per ripescare. Sì, insomma, nel momento in cui si esce, loro si accorgono che c'è un trasferimento di numero a un altro gestore, allora in quel momento ti richiamano e fanno delle proposte più interessanti. Mm-hmm. Che sembra un po' una cosa. Vabbè, sì, insomma, infatti, no, perché prima si sforzano troppo, no? Poi ci chiediamo perché non andiamo bene nel nostro paese. Vabbè, a parte questo. Allora, Alberto, intanto il nostro signore è un agente di commercio, sicuramente quindi usa molto il telefono, ha una tariffa del 92 e già qua dobbiamo sgridare perché non si sia dato un'occhiata intorno un po' prima. Detto questo, insomma, per esempio, andando su SOS Tariffe, lui dovrebbe mettere tutti i dati relativamente al suo profilo di consumo. Assolutamente sì, buongiorno Maurizio. Io comincerei col chiederle, ad esempio, quante chiamate effettua ogni giorno in media. Maurizio. Ma guardi, non ho una media, il numero parliamo. Sì. Parliamo di 30-40 chiamate al giorno. Allora, andiamo verso il basso, perché molto spesso ci sembrano poche, ma invece, per esempio, alcuni ascoltatori ci scrivevano, io faccio poche telefonate, ne faccio sì e no una decina al giorno di 2 minuti, e i miei interlocutori di SOS Tariffe invece erano piuttosto sbalorditi, perché in realtà sono tanti consumi, sì, Alberto Mazzetti. Effettivamente sì, nel senso questo, che molte volte uno non si rende conto che magari effettua molte meno chiamate e soprattutto non le effettua di una durata molto lunga. Magari una volta chiama per avvisare giusto che sta arrivando e quindi sono 30 secondi, mentre un'altra può essere di una durata più lunga perché appunto magari una chiamata di lavoro. Allora, mettendo che quindi Maurizio ne faccia 30 al giorno, di che cos'altro abbiamo bisogno di sapere? Abbiamo bisogno di sapere quanto dura in media una chiamata e quanti sms invia in media al giorno. Maurizio, agente di commercio è molto in macchina, spero che sms non ne mandi perché sennò la guida non va bene. No, io ne mando qualcuno, non avevo questa abitudine, ma siccome delle volte si corrisponde anche con questo, esatto, allora delle volte rispondo anche con l'SMS. Allora. Però generalmente le chiamate hanno una durata dei massimo 5 minuti, diciamo, eccetto chiamate particolari, voglio dire, ecco, però massimo 5 minuti. Allora, siccome lui dice chiamata che... 2-3 minuti. Allora, ci mettiamo due dentro, Mazzetti. Sì. E gli SMS mi serviva sapere. Quanti ne manda, Maurizio? Beh, ci sono giorni che ne mando anche una trentina, giorni che ne neanche uno. Facciamo 15 di media, ci piace anche questa cifra? Anche 10 di media. Va bene. Benissimo. Adesso allora vediamo se possiamo abbandonare questa tariffa arancione del 92, esatto, che così mi chiama Telecom e me ne dice 4 più, esatto, tardi. Prima volevo chiedere a Maurizio quanto sta spendendo attualmente. Maurizio, quanto spende? Che bolletta le arriva? Indicativamente sulle 180. A bimestre? No, sui 150, un po' di sì, più o meno a bimestre saranno 200 e qualcosa. A bimestre 200 e qualcosa, quindi Alberto, abbiamo trovato una tariffa. Sì, abbiamo trovato una tariffa, in questo caso è una tariffa della 3, si chiama 3 Power. E con questa tariffa si può spendere 56,81 € al mese. Allora Maurizio, se lo vado a fare un giro il profilo in questo... di consumo, esatto, di Maurizio. E quindi, allora, questo è quello che emerge, Alberto, dai dati, esatto, dal vostro sito. Il consiglio che do voi a Maurizio... Voi permettete direttamente di sottoscrivere il contratto con la compagnia? No, attualmente no, con la telefonia mobile e internet mobile non è ancora possibile. Non è possibile, stiamo l'orientamento è quello. Esatto, contattando tutti i singoli operatori per stabilire delle partnership e favorire anche diciamo la sottoscrizione più, certo, diretta, in modo tale che funzioni un po' come sei sicuro e quindi possa essere immortalato quello che il preventivatore dice in quel momento, che venga seduta stante e rispettato. Quindi lì che cosa significa? Che una volta che abbiamo visto qual è l'offerta che può andare bene per noi, dobbiamo comunque rivolgerci all'operatore dice magari per avere un trattamento di favore. Ho visto questa tariffa su SOS Tariffe. Possibilmente è meglio che lo dica. Va bene, quindi Maurizio, insomma, ci provi e magari troverà un bel risparmio, perché mi pare di capire, insomma, siamo ad un terzo rispetto a quello che spende attualmente. Direi che il risparmio è notevole. Sarebbe in questo caso di provare. Yolanda ci fa tornare ancora sulle bollette. Yolanda, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, io ho una, sono, diciamo, cliente di Enigas Empower e dal 2008 non ricevo più le mie fatture normali, cioè adesso non mi chieda se è bimestrile o bimestrale o trimestrale. In ogni caso non le ha viste, quindi proprio sono annuali praticamente. Visto che veramente mi arriva una fattura annuale che mi capisce che è un importo ingente, uno dà fastidio per spendere tutto insieme una volta all'anno, e poi comunque non è quello che era prima di quando noi abbiamo unito alla gas anche l'elettricità, quindi siamo diventati, diciamo, dei clienti più importanti, e questo è diventato uno svantaggio, un problema, perché a un certo punto è partita questa tariffazione annuale e non c'è verso. Io ho chiamato più volte il numero verde, ho mandato un fax, non c'è modo di spezzettare la bolletta. Quindi la ringrazio, Yolanda, devo salutarla perché mi rimane un minuto e mezzo di tempo, quindi vorrei darvi tutte le risposte possibili. Ingegner Grossi, è una situazione che conoscete questa? Dunque, non la conosciamo, però va detto che quando uno firma un contratto nel mercato libero può esserci che nel contratto ci siano delle condizioni particolari, tipo questo della fatturazione annuale o altro. Ammettendo che l'ascoltatrice abbia inavvertitamente firmato questa condizione, non proprio può tornare indietro? E deve riconsiderare quello che è il contratto con il proprio venditore, però sembra strano che vi sia un peggioramento, quindi senz'altro deve richiedere informazioni al proprio venditore, e poi se non ha spiegazioni e ragioni può segnalarlo a noi, che facciamo un ulteriore approfondimento. Benissimo, anche perché mi sembra una situazione decisamente curiosa, no? No, chi paga le bollette dell'elettricità una volta l'anno? Mi sembra una situazione abbastanza non consueta, insomma. Ecco, intanto il tempo a nostra disposizione sta volgendo al termine, riusciamo chissà. Allora, intanto ci richiedono il numero verde del sito dell'autorità, 800 166 654. Ingegner Grossi, ho detto correttamente? Corretto. Perfetto. Ci richiedono poi i siti di cui abbiamo parlato questa mattina, ma io, se volete avere una panoramica ancora più ampia, c'è la pagina di Affari Privati del Sole 24 Ore di oggi, che vi dà tutti quei motori di ricerca che potete utilizzare per la telefonia, per le assicurazioni, e poi il sito, appunto, dell'autorità del gas. L'ultima magari informazione la concedo a Nicola Girelli di Sei Sicuro, perché nel settore assicurativo come dire, quello che dimostra sempre un po' più di resistenza da parte degli utenti, perché preferiscono di gran lunga il rapporto diretto con l'assicuratore. Girelli, insomma, abbiamo delle novità in arrivo per questo ambito che possano come dire, avvicinare di più il consumatore verso il mondo anche dell'online? Ma diciamo che l'assicurato italiano è estremamente fedele, è un fenomeno soprattutto italiano, siamo tra il 5 e il 10% gli assicurati che cambiano compagnia nel comparto del RC Auto, a fronte di un'offerta molto ampia e con possibilità di risparmi. Molto spesso si teme il cambiamento, o semplicemente si considera quasi una tassa la polizza RC Auto in quanto obbligatoria. E allora rendiamola più leggera, dire, attivandoci a cercare per qualcosa di meglio. Per quanto riguarda poi il contatto diretto, c'è da dire che sia le compagnie dirette, sia nel caso nostro, là dove si scelga una compagnia tradizionale, c'è sempre il contatto anche fisico presso i nostri uffici. Abbiamo 15 uffici, 18 uffici in tutta Italia, presso il gruppo Assiteca, che ci permettono anche benissimo di dare lo scontro. Grazie mille, Girelli. Allora, ci sono tante telefonate di ascoltatori che avrebbero voluto interagire con noi proprio per chiedere informazioni sul miglior abbonamento telefonico. Allora io strappo una promessa ad Alberto Mazzetti, ti giro tutte queste chiamate. Assolutamente sì. E quindi cercheremo di soddisfare i nostri ascoltatori magari in maniera indiretta attraverso il sito di salvadanaio@radio24.it. Grazie a tutti, da Deborah Rosciani, a domani.